Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Siamo nel 2003, io sono Alessandra Fiori e qui con me c'è sempre lui. Ciao, sono Franco Schipani, ciao a tutti, ciao Ale. Ciao Franchi, allora 2003. Colonna sonora ci accompagnava? Beh, non lo so quale colonna sonora intera ci accompagnava. Sono sicuro che al numero uno c'era questa canzone. Sono le 5 alla mañana e io non he dormido nada, pensando in tu belleza, in lo che voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía, no viviré en paz. He conocido hablar, además tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo, pero tendré paciencia porque él no es competencia, por eso me motivas para yo respetarlo. E questi sono gli Avventura, gruppo dominicano della Repubblica Dominicana. Quanto con un contento. Giovanissimo Romeo Santos che canta, sì, sono molto contento perché io amo questa musica. E comunque questo single, che già l'anno precedente andava così in radio, così alla chitichella, poi invece è arrivato ed è rimasto in classifica, pensa, per otto mesi, appunto. Questo successo poi ha contribuito notevolmente a promuovere lo stile della danza baciata nelle sale italiane. Però scommetto che c'era anche altro. Assolutamente c'era anche altro, e fra questo altro, questo. E dopo la baciata degli Obsession, degli Avventura, il merengue si sentiva anche un po' sotto, arriva il terzo ritmo latinoamericano di successo, che è il reggaeton. Reggaeton che è nato a Panama, poi si è un po' mischiato con la musica del Porto Rico, ovviamente anche con quella dominicana. E oggi il reggaeton, dobbiamo dirlo, è il motore economico ed anche così culturale del pop mondiale, assolutamente. Il telefono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguirá si no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra, la vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito, bonito. Vedi quanta musica latinoamericana nel 2003, cara Alessandra? Ma io lo sai che mi sa che ho vissuto un altro 2003, Franky. Questo è Jarabe de Palo con Bonito, questo te lo ricordi come brano? Me lo ricordo. Era un po' in tormentone. Un'eco lontanissima. Un bellissimo gruppo spagnolo di rock, capeggiato da Pau Donés, che è un grande cantautore e soprattutto un grande chitarrista. Ecco Franky, ma dopo questa boffata latina ci dobbiamo spostare dall'altra parte del mondo e andiamo in Iraq il 12 novembre del 2003 a Nassiriya. Sono le 8:40, al posto di blocco della base dei carabinieri a Nassiriya arriva un camion cisterna a forte velocità, è seguito da un'auto. Impossibile fermarli ed è l'inferno. Un camion imbottito di tritolo, ecco ciò che resta. Una voragine larga una decina di metri e profonda 3. Il palazzo che ospitava la base è ormai ridotto ad uno scheletro pericolante. Il bilancio delle vittime parla di 18 morti italiani, 12 carabinieri, 4 militari dell'esercito, 2 civili. Questa sera avevamo una festa, tutti assieme, perché alcuni partivano, altri sono arrivati. Hanno partecipato settimana scorsa alla messa. Abbiamo fatto gli auguri per le loro famiglie ed è in questo momento di dolore, proprio perché li ho conosciuti, che voglio far giungere la mia preghiera. La strage più terribile per le nostre forze armate dalla Seconda Guerra Mondiale, il primo atto di ostilità contro i nostri soldati in Iraq. Lo abbiamo sentito il 12 novembre del 2003 a Nassiriya, un camion cisterna carico di esplosivo con 2 kamikaze a bordo scoppia davanti alla base militare Maestrale. Alla fine l'attentato provoca 28 morti, 19 sono quelli italiani. Ho ancora nel cuore gli sguardi, le parole, la dignità, la compostezza dei familiari dei nostri caduti in Nassiriya. tutta l'Italia si è unita nell'omaggio ai nostri compatrioti che hanno dato la vita per favorire la rinascita di un altro popolo. Erano le parole del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Il contingente italiano infatti era impegnato in operazioni di peacekeeping, ricostruzione, mantenimento dell'ordine pubblico, addestramento della nuova polizia irachena in seguito alla seconda guerra del Golfo. Il 20 marzo infatti del 2003, scaduto il termine dell'ultimatum di Stati Uniti, Regno Unito e Spagna a Saddam Hussein, alle 3:55 del mattino erano scattati i bombardamenti su Baghdad e sul resto del paese. Iniziava così la seconda guerra del Golfo. Nonostante le innumerevoli manifestazioni pacifiste in tutto il mondo e nonostante gli appelli del Papa Giovanni Paolo II, che tornerà sull'Iraq in questo 2003 più di 30 volte. Io appartengo a questa generazione che ricorda bene, ha vissuto, grazie a Dio sopravvissuto, la seconda guerra mondiale. Per questo ho anche il dovere di ricordare a tutti questi giovani, più giovani, che non hanno questa esperienza, di ricordare e di dire mai più la guerra. All'inizio di maggio sono trascorsi neanche due mesi dallo scoppio della guerra quando il presidente George W. Bush dichiara che i combattimenti in Iraq sono finiti e che la coalizione ha vinto. A dicembre poi le forze speciali americane catturano l'ex presidente iracheno Saddam Hussein. Yesterday, December the 13th, at around 8:30 p.m. Baghdad time, United States military forces captured Saddam Hussein alive. Il 13 dicembre del 2003, l'annuncio del presidente Bush che abbiamo sentito, in cui appunto dice che Saddam Hussein è stato catturato, e immediatamente le fotografie che lo ritraggono invecchiato e indifeso fanno il giro del mondo. You make me strong. Show me I'm not weak to fall in love. Surrender, Laura Pausini. Arrendersi, mi sembra proprio, no? Azzeccato come titolo. Adeguato, Frankie. Adeguato. Comunque con questa canzone Laura Pausini ha tentato con successo, devo dire, di scalare le classifiche americane, entrata nella classifica dei top 10 di Billboard Dance Club Play Song. Quanto lo dico bene, questo coso the Play Song è comunque un grande successo nei club in tutti gli Stati Uniti. Però, Frankie, va bene la Pausini, che è molto simpatica, è molto brava, tanto, ci piace tanto. Però io immagino così, a occhio, che nei club si sentisse anche qualcos'altro. Assolutamente, fra qualche cos'altro, soprattutto questo. Back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity, choke, he's so mad, but he won't give up, that is he know, he won't have it, he knows, his whole back to these ropes, it don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke, he's so stagnant, he knows, when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Mix 24. Musica e storia. Back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Joe, he's so mad, but he won't give up. That is he know. He won't have it. He knows. His whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Siamo nel 2003, io sono ancora Alessandra Fiori e qui ci sei sempre tu. Franco Schipani, ciao a tutti, bentrovati. Come sei rap? Vero? Molto. Ti piace questo brano? Lo sai che sì. Piace anche a Chiappini, secondo me anche il vinile. Sicuro, sicuro. Guarda, sicuro. Guarda come lo alza, guarda come sorride. Franky, però spiegacelo questo brano, chi è? Chi non è? È che tutti. No, questo brano in particolare è molto importante perché fa parte della colonna sonora del film 8 Miles, 8 miglia, che è un quartiere di Detroit molto particolare, dove ha vissuto Eminem. Infatti la storia del film è liberamente così, come si dice, aiutami, ispirata alla vita di questo famoso rapper che ha vissuto appunto a Detroit. È un bellissimo film, vi raccomando di vederlo perché è importante. Però mentre succedeva questo negli Stati Uniti, in Italia, beh, era tempo di emozioni. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano una canzone per sempre, parole che restano così nel cuore. Un'emozione per sempre, Rosario Mazzotti, tratto dall'album 9, numero 9, pubblicato... Dopo 8 Mile 9. Dove 9, ma guarda, come sei sofisticato! Comunque è stato pubblicato nel maggio del 2003. Ed è rimasto il primo in classifica per 14 settimane. Invece alla fine totale 2003, piano piano, è rimasto in classifica per 105 settimane. Con questo brano Rosario Mazzotti vince il Festival Bar. E io qui ti 2003. Fermo, Franky, perché io lo so che tu vuoi andare al Festival Bar, ci andremo, ma prima, in questo 2003, l'anno, l'abbiamo detto, della seconda guerra del Golfo, ti devo raccontare che si consumano atroci attentati terroristici in tutto il mondo. E proprio in Iraq, il 19 agosto, un camion bomba colpisce il quartier generale dell'ONU, provocando 22 morti, tra i quali il diplomatico brasiliano Sergio Vieira de Mello. Con lui c'era Marwan Ali, direttore degli affari politici in Iraq, che si salvò per miracolo. Vorrei paragonare quel giorno all'11 settembre per gli Stati Uniti. Ha cambiato l'intero approccio alla sicurezza, spiega. Il punto è che da allora ci si è allontanati dalla popolazione. Abbiamo continuato a parlare con i politici, dice Ali, ma abbiamo perso il contatto con la gente. Ma il terrorismo in questo 2003 esplode ovunque. A maggio 5 attentati sconvolgono il Marocco, a Casablanca. 45 le vittime dell'attacco, senza colpevoli né movente. Il fantasma del terrorismo non fornisce spiegazioni sufficienti ai marocchini che guardano alle cause, povertà ed emarginazione. Viviamo ancora nel dolore, spiega un sopravvissuto. Chiediamo a tutti i musulmani del Marocco di diventare un modello per il mondo arabo e musulmano e di non cedere al terrorismo. Un hotel, un ristorante italiano, un centro della comunità ebraica, gli obiettivi dei giovani terroristi cresciuti nel quartiere ghetto di Sidi Moumen, dove manca anche l'acqua corrente. Estremismo e povertà in Marocco hanno lo stesso comun denominatore. E non solo in Marocco. Anche la Cecenia in questo 2003 torna a infiammarsi. Il 12 maggio un'autobomba esplode provocando oltre 50 vittime. E poi ancora il 5 luglio due terroriste si fanno esplodere durante un concerto. Insomma, da Israele all'Arabia Saudita, l'India, la Somalia, la Turchia, Gerusalemme, il 2003 è davvero un anno orribile per il terrorismo internazionale. E in Italia, intanto, ricompaiono le Brigate Rosse. Infatti, il 2 marzo, sul treno Roma-Firenze, quello che doveva essere un normale controllo di polizia si trasforma in una sparatoria tra la polizia e i brigatisti. In quello scompartimento di treno c'è anche una coppia che assiste. C'eravamo io, mia moglie, poi tra i poliziotti. Abbiamo solo girato lo sguardo quando abbiamo sentito alzare la voce, abbiamo visto questa con la pistola puntata sulla testa del poliziotto. Poi dopo loro hanno provato a dirgli di abbassare l'arma e a un certo punto abbiamo sentito sparare. Nello scontro a fuoco del 2 marzo perde la vita il sovrintendente della Polfer, Emanuele Petri, di 45 anni. Lui quel giorno non doveva essere di turno perché doveva accompagnare il martedì successivo il suo amico Roberto in piscina per la riabilitazione, quindi aveva fatto uno scambio di turno con un collega. Per me Emanuele era un po', non diciamo invulnerabile, però pensavo proprio che non gli potesse succedere niente. Quindi è arrivato quella mattina è arrivata come un fulmine a ciel sereno quello che poi è capitato. Insieme a Emanuele Petri, quel giorno perde la vita anche il terrorista Mario Galesi, di 37 anni, mentre l'altro terrorista è una donna. Si tratta di Nadia Desdemona Lioce, già ricercata come Galesi per l'omicidio d'Antona. Verrà condannata all'ergastolo, ma ci torneremo. Con il gelo nella mente sto correndo verso te. Giorgia Gocce di Memoria, che tra l'altro è la colonna sonora del film La finestra di fronte di Felsen Hospital. Che poi il video, Franchi, è girato a Ponte Sisto. Sì. E c'è anche La mezzogiorno, ma Franchi, però sei passato così, ti ho costretto a passare così di corsa sul Festival Bar. Ci sì, perché c'è un colpo di scena nel 2003, sia al Festival Bar che al Festival di Sanremo. Beh, c'è una sola protagonista, una che io veramente adoro. Gianluca, perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale? Perché parla pure dei Roni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Trento Doc, bollicine di montagna dal Trentino. trentodoc.com. Mix 24, musica e storia. No, non è un cielo. Solo in te, vulnerabile. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Siamo ancora nel 2003. Io sono Alessandra Fiori e qui con me c'è lui, Franco Schipani. Ciao a tutti, ciao Ale. Franco, io non sapevo di questa tua passione per Alexia. È fantastica, ah, l'adoro. Sì. Abbiamo ascoltato i due pezzi che le danno grande successo nel 2003. Egoista, Alexia, sempre. Mm-hmm. E Per dire no, che insomma una spopola al Festival Bar e l'altra invece vince a Sanremo. Ah, senti, questa volta l'hai detto con un tono allegro. Sanremo, non ti capita mai. Che l'edizione 2003 ti è piaciuta? A me no, e non è piaciuta neanche ai telespettatori, perché nel 2003 è andata malissimo, nonostante Pippo Baudo affiancato da Serena Autieri e Claudia Gerini. Insomma, però se l'ha messa tutti, il format ormai è logoro, la media delle 3 serate televisive scende sotto il 43%, un numero inimmaginabile, non riesce mai a rompere la barriera del suono, capisci? Quella dei 10 milioni, non ci riesce, a 10 milioni si è rotta la barriera del suono. Ottimo invece il cartellone del Festival Bar, 72 cantanti e molti di questi arrivano in classifica. Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano, un giro, un passo avanti ondeggiando, un altro indietro. Su una barca di pirati in festa, io con la bandana in testa ti do la caccia, la folla balla e dentro la piscina c'è chi prova a stare a galla come una palla. Ti giro intorno seguendo il tuo bacino, bello come il mondo, rotondo, io mi ci tuffo, mi ci impossesso, perché sono il capitano, se il capitano, se se almeno stavolta col coraggio di guardarci in faccia. Siamo stanchi, sarà il carattere, la lista dei difetti l'hai fatta tu, io mai. Ora smetti di pensare. La canzone del capitano Uncino, DJ Francesco, è almeno stavolta neck. Comunque nel 2003 gli artisti italiani tornano prepotentemente nelle classifiche. Sai, la gente è matta, forse troppo insoddisfatta. Segue il mondo ciecamente. E questa è Elisa con Almeno tu nell'universo. Alexia, Elisa, oggi mi sorprendi, Franchi. Restiamo in Italia comunque. Okay. Perché nel 2003 la Corte di Appello di Palermo emette una sentenza importante. Era il 1993, quando nell'Italia, che era sconvolta già da Tangentopoli, arrivava anche la notizia di un clamoroso avviso di garanzia a Giulio Andreotti, indagato per mafia. Poco prima di ricevere quell'avviso, Andreotti veniva intervistato da Giovanni Minoli. Nessun governo, ripeto, può dimostrare, chiunque, nessun governo ha fatto quello che abbiamo fatto noi. E quelli che ci accusano devono dire che cosa hanno fatto di concreto contro la mafia, avendo pure delle posizioni di potere. Beh, Orlando dice di lei delle cose tremende, dice che è il capo di una cosca perdente. Guardi, io per la verità in materia di mafia mi intendo molto meno di quanto se ne può intendere Orlando, perché oltretutto non ho mai vissuto in Sicilia e certamente non c'è nessuno che abbia fatto contro la mafia quello che ho fatto io e il mio governo. Questo non ci piove. Ecco, il 2 maggio di questo 2003 la Corte di Appello di Palermo emette questa sentenza. In nome del popolo italiano, la Corte, in parziale riforma alla sentenza resa il 23 ottobre 1999 dal Tribunale di Palermo nei confronti di Andreotti Giulio, dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere, per essere lo stesso reato estinto per prescrizione. Nel 2003, al momento della sentenza, Giulio Andreotti ha 83 anni e commenta la notizia con il consueto spirito. Il tempo è galantuomo, dice, magari se andasse un po' più veloce sarebbe meglio. E intanto al governo nel 2003 c'è ancora Silvio Berlusconi, che è al suo secondo governo, che è il 57esimo esecutivo della Repubblica e rimarrà in carica fino al 2005. Il 22 giugno del 2003 l'entrata in vigore di una legge, la 140 del 2003, scatena delle polemiche molto molto accese. Il primo articolo infatti è il cosiddetto Lodo Schifani, il provvedimento con il quale si garantisce l'immunità e la sospensione dei processi in corso per le 5 più alte cariche dello Stato. L'anno seguente, nel 2004, verrà dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Ma restando in questo 2003, il 2 luglio a Strasburgo, durante la seduta del Parlamento Europeo, c'è un durissimo scontro verbale tra Martin Schulz e Silvio Berlusconi, che in quel giorno si insedia come presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Schulz accusa Berlusconi di conflitto di interessi e critica anche il quoziente intellettivo di alcuni suoi ministri, tra cui per esempio Umberto Bossi. Berlusconi risponde così. Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. Ecco, diplomatico, no, Franchi? Molto, moltissimo. Molto diplomatico. Franchi, ma intanto oggi inglesi e americani non li hai fatti comparire quasi per niente, ma quasi no, mai. Ma no, arrivano, arrivano. Music, avviene l'impossibile, Britney Spears e Madonna insieme. Io soffro. soffri. Io soffro a sentire questa deriva della mia eroina. Sì, però soffri, ma soffri poco. Ma... perché in fondo poi le due non si sono quasi mai viste, perché le cose sono state fatte in studio, studi separati, balletti separati. Poi non però erano si d'accordo. Incontrano per il famoso bacio a un certo punto. Sì, ma quella è stata una trovata pubblicitaria. Però sta di fatto che erano separate in casa e questo disco, in questo disco non si sono mai viste in studio. Sì, va bene, ti mando le mie cose, tu mandi le tue cose, le uniamo, mettiamo insieme tutte le cose e poi esce la cosa, no? È uscita la cosa, è uscita infatti la cosa. Franky, allora restiamo nella tua America, perché il 1 febbraio si consuma una tragedia atroce nello spazio. Lo Space Shuttle Columbia infatti esplode nella fase di rientro e lì muoiono tutti e 7 gli astronauti. Prima del lancio l'equipaggio parla con la stampa. Solo poche persone possono fare certe cose, ma se ti piace ciò che fai, non hai sprecato il tuo tempo. L'equipaggio è nuovo e giovane. Abbiamo lavorato a lungo insieme. Tra di noi c'è un affiatamento incredibile. Gli scossoni devono essere stati sempre più violenti. Non sappiamo esattamente cosa sia successo, ma la fine non è stata istantanea. Gli astronauti hanno avuto il tempo di rendersi conto di ciò che stava per succedere. Beh, atroce, Franky, ma tu eri in America, tu seguivi? Seguivo, ero attaccato alla televisione insieme a altre, non so quante decine di milioni di americani e non, e devo dire che abbiamo visto delle immagini veramente, veramente scioccanti che rimarranno con noi per il resto dei nostri giorni. Completamente inaspettato, Ale. Franky, tu sicuramente eri in America anche quando è successo un altro fatto nel 2003. E non lo posso dimenticare. Questo non lo puoi dimenticare un altro, perché questo. Il 14 agosto un blackout elettrico colpisce per 30 ore il nord-est degli Stati Uniti e del sud-est del Canada, interessando le città di Detroit, Cleveland, Toronto, Ottawa e la tua New York. E sai dove ero io? Dov'eri? Ero appena uscito fuori da un ascensore al 28° piano. E ti ha detto molto bene. Ma molto, molto bene. Molto bene. Se mi fermavo sotto a comprare le sigarette ero fregato. No, ma che pensa se eri in ascensore? No, pensa se stavi in ascensore. Assolutamente. 30 vabbè. Ore? Da, io non lo so, ragazzi. No, esco e si blocca l'ascensore. No, wow. Va bene, va bene. Però quello che invece forse non puoi aver seguito è questo. È successo proprio come a New York. Intorno alle 3.30 l'Italia si è fermata, spenta dalle Alpi alla punta estrema della Sicilia e tranne poche eccezioni il paese è piombato nel buio totale. Si sono fermati improvvisamente treni, bloccati ascensori, cancelli automatici e anche i semafori hanno smesso di funzionare. Diversi ospedali si sono trovati in difficoltà per il blocco di alcuni strumenti automatici, come i respiratori artificiali. A Roma la situazione è più critica perché era in corso la notte bianca, con eventi in molti punti della città, la metropolitana in funzione e le strade piene di gente. Come in una sorta di effetto domino, il blackout si è propagato in pochi minuti lungo tutta la penisola per un guasto tecnico che ha mandato in tilt anche il nostro sistema di riserva. Ecco, era il 28 settembre, Franky, del 2003 e un blackout, come a New York, ha lasciato l'Italia al buio ed era la notte bianca. Che bello, una cosa romantica. Beh, anche no, Franky, non no. Molto, non molto. Sei poetico oggi, Franky? Sì, sono poetico, ma per tanto questo 2003 che un po' mi sfugge tra le dita. Allora vedi, lo vedi che sei poetico allora? E allora sai che faccio? Dimmi. Ti regalo un momento di poesia. Solamente tu sei, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Io non ti lascerò fino a quando vivrò tutto quello che un uomo può fare, stavolta per te lo farò. Non si può cercare un negozio di antiquariato in via del Corso, ogni acquisto ha il suo luogo giusto e non tutte le strade sono un percorso. Tutto quello che è un uomo, Sergio Cammariere, e poi il negozio di antiquariato di Nicolò Fabi. Con questo brano Nicolò si è aggiudicato il premio della critica al Festival Sanremo del 2003. Franky, allora, vista la tua ondata poetica, ne approfitto e anch'io ti regalo un pezzettino di poesia e musica. Io mi chiamo G. Io mi chiamo G. No, non hai capito, sono io che mi chiamo G. No, sei tu che non hai capito, mi chiamo G anch'io. Il mio papà è molto importante. Il mio papà, no, Io sono figlio unico e vivo in una casa con 18 locali. Io vivo in una casa con un locale solo, però ho 18 fratelli. Il mio papà è molto ricco e guadagna 31 miliardi al mese, che diviso i giorni che ci sono in un mese fa 1 miliardo al giorno. Il mio papà è molto povero e guadagna 10.000 lire al mese, che diviso i giorni che ci sono Franchi, in un il signor G. Che meraviglia. Giorgio Gaber, che purtroppo ci lascia il 1 gennaio del 2003. E il mese successivo, il 24 febbraio, se ne va un altro grandissimo personaggio, un grandissimo del cinema italiano, ed è Alberto Sordi. Oh, mannaggia! Che ne vai? E so devo assaggio? Lo vedi, lo vedi. Beh, ma pure te stai per partino? Certo, faccio un viaggio per affarci, vado a salutare mamma, poi proseguo per la Liguria, devo firmare un contratto con l'ingegnere. Dove vai? In Liguria? Sì, Liguria. E fa la stessa strada mia! Come la strada tua? Sì, io devo andare in Corsica, faccio tutta Aurelia, poi faccio la deviazione per la Corsica, no? Sì. E poi la stessa strada insieme. Che vuoi dire? Che vieni con me? Sì. Padre e figlio, un viaggetto insieme, mai una volta. Franchi, naturalmente, in viaggio con papà, Sordi e Verdone. Meravigliosi, meravigliosi. E proprio Verdone così ricorda Sordi davanti alla folla al suo funerale in Piazza San Giovanni. Questo serpentone lunghissimo che andava a rendere omaggio alla salma di Alberto sembrava il popolo che andava ad omaggiare Cesare. Io posso dire sinceramente una cosa, che Sordi, avendo rappresentato circa 50 anni di storia di questo paese, partendo dai momenti difficili della guerra, della ricostruzione, per poi arrivare al boom economico, Sordi praticamente non può avere eredi, non ha eredi. Prima di andare via, spero che balli un po' con me. Sopra la musica, ora il tuo corpo si muove. Può essere l'ultima buona occasione per me di redenzione insieme a te. Niente distanza ora, no. Tu sei bellissima, forse un po' troppo per me. Se avessi solo un attimo, cose che ti direi. Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere d'accordo, prova ad ascoltare un po' di più. Prima di non essere da sola, prova a pensare se stai. Prima di andare via, Neffa, e prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi. Franchi, ma c'è un'altra perdita in questo 2003, se ne va un altro grande personaggio, se ci sente la Cravetto soffre, sicuramente starà soffrendo perché a lui è l'avvocato. Senta, avvocato, ma nella poesia del calcio, lei dove si mette? Cioè il calcio, poi alla fine che cos'è per lei? C'ha questa io poesia, dico, questo io ho molta, fa sognare, la fa sognare. Ho molta gratitudine per chi mette insieme una squadra che vince. Mi fa piacere sempre vedere la Juventus, però mi fa anche piacere vedere del bel gioco. L'avvocato Agnelli scompare nel gennaio del 2003, ma Franchi, la Juve vince un altro scudetto. Sì, Ale vince lo scudetto, però perde a rigori una clamorosa finale di Champions il 28 maggio a Manchester per la prima volta in quasi 50 anni, pensa. La finale è tra la Juventus e il Milan e... Tutto sospeso in attesa del tiro di Shevchenko. Ci si gioca tutto qua. Shevchenko contro Buffon. Merck controlla, può partire. Shevchenko, tiro ed è rete! Rete! Rete! Il Milan è campione d'Europa! Franchi, io ti vedo incredibilmente preparato sull'argomento. Beh, io adoro il calcio, adoro, come diceva l'avvocato, a me piace vedere le belle partite. Io tifo per una squadra, però mi piace vedere del bel calcio, anche il migliore. E allora, guarda, io ti devo dire rapidamente che c'è una cosa a cui tiene moltissimo Rachele Caracciolo e ci tiene a dire che nel 2003 Pierluigi Collina è il primo arbitro a conquistare per la quinta volta il titolo come miglior arbitro del mondo. Hai capito? E perché interessa tanto la non lo so, è una cosa orgoglio sua. Italiano è una cosa, ha avuto orgoglio, un momento, una botta di orgoglio, sì, un momento così ha va avuto. Bene, ok. Poi c'è Valentino Rossi che vince il GP in Malesia e poi c'è Schumacher che vince per la sesta volta il campionato del mondo piloti, superando il record assoluto di Manuel Fangio. Crazy in Love, Beyoncé e Jay-Z. Lei è stata nominata 62 volte ai Grammy Awards, 62 volte, con 22 trionfi, 19 dei quali, pensa, da solisti. Senti Franco, sono curiosa, ma a te piace Uma Thurman? Ma scusa, ma che domanda è questa? No, no, sono seria, perché ho notato che il popolo maschile su di lei si divide. Chi la ama, per esempio Tarantino, e dice... ci sono pure io tra quelli. Ah, ok, okay. Poi invece c'è chi dice bah. Bah, bah. E così permette. Comunque Uma quest'anno, bah, nel 2003, Uma era un po' alterata. Quella donna merita la sua vendetta. Deve soffrire fino all'ultimo respiro. Frankie, Kill Bill, volume 1, che esce quest'anno. E nello stesso anno escono un sacco di altri film, tra i quali Love Actually, L'amore davvero. La tesi del film è sintetizzata nella canzone Love is all around, l'amore è dappertutto. Condividi, Frankie? Assolutamente. E poi esce questo. Questo non è un buco. E che cos'è? È il posto dove si sta quando si muore. Senti, io non so come fartelo capire. Questo è un buco per terra. Fuori c'è l'aria, ci sono i canti, c'è tutto. Dai, andiamo. Io non ho paura, il film di Salvatore è estratto dal bellissimo libro di Niccolò Ammanniti. Franchi, guarda, siamo proprio alla fine. Tu c'è qualcosa che vuoi aggiungere? Assolutamente sì, ecco. Perché il 7 ottobre in California viene eletto un governatore particolare. Voglio i tuoi abiti, stivali e motocicletta. Hai dimenticato di dire per favore. Eh sì, mia cara, è proprio è lui. Arnold Schwarzenegger, che diventa governatore della California, repubblicano naturalmente. Giustamente. Sì. Franchi, è quasi tutto per questo 2003, ma prima di lasciarvi con il brano scelto, come sempre, da Antonella Migliaccio, oggi non posso non farti non ascoltare anche questa canzone del 2003, perché è quella che canto sempre a mia figlia Giulia. Ah, allora. Anzi, faccio così, guarda, Franchi, lo faccio. Questa è dedicata a te. Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia. Sei immensamente Giulia, il tuo nome è come musica, mi riempie e non mi stanca mai, dedicato solo a te. E allora, cara Giulia, era dedicato a te, le vibrazioni. E per chiudere adesso ci siamo con il brano di Antonella Migliaccio. Siamo arrivati alla Migliaccio. Bene. Una canzone che per Antonella mette d'accordo tutte le generazioni, addirittura la nostra, mia e della Migliaccio, quella della Caracciolo e addirittura anche la tua, Franchi. Addirittura. Sì, dà un grandissimo potere a questo cantante, Antonella. E intanto, prima di annunciarvi chi è, vi salutiamo, ci risentiamo nel 2004. Ci sentiamo nel 2004, sì. Ciao a tutti, da Franco Schipani. Da Alessandra Fiori, e noi vi lasciamo con Sere Nere di Tiziano Ferro. Ripenserai agli angeli, al caffè caldo svegliandoti, mentre passa distratta la notizia di noi due. Dicono che mi servirà, se non uccide fortifica. mentre passa distratta la tua voce alla TV, tra la radio e il telefono risuonerà il tuo addio.